fanno dei cavi che sono invidiati dappertutto. Costano un po' cari, però ne vale la pena, ti durano anni, anni, anni, non temono né acqua realmente, li puoi anche sotterrare, figurati. Sì, ne ho sentito parlare già fra di questo cavo qua, mi sa che mi pare su internet o qualcosa del genere. Sì, ho sentito, ma io il cavo gliel'ho cambiato, allora io quando ho tolto la Game Master ho cambiato il tubo, i tiranti, l'antenna, ho cambiato tutto completamente e anche il cavo. Il cavo ho trovato un'occasione di una persona che aveva comprato 100 metri di questo cavo nell'H100. E praticamente poi non ha più piazzata l'antenna perché c'aveva il tetto spiovente e nessuno ci voleva salire, nemmeno gli operatori che piazzano le antenne, non ci è voluto salire nessuno perché il tetto era troppo spiovente e quindi ha rinunciato a tutto, si è venuto a parecchio tutto quanto quello che aveva e il cavo c'era la matassa e ce l'abbiamo divisa in tre, capito? Ne ha preso mi pare io, Franco, California e Claudio, mi pare in tre l'avevamo preso. E ce ne siamo divisi, a me ne servivano 20 metri, all'altro ne servivano 30, capito? L'abbiamo diviso così. L'unica era. Cavo costa caro e quindi se si può risparmiare così ne vale la pena. Però certi altri cavi economici, tra virgolette, perché poi ti costano più cari quando lo devi sostituire, e dopo qualche anno li vedi che sono fatti a pezzi dall'umidità, dall'acqua e chi più ne ha più ne metta. Quindi a volte pensi di risparmiare, invece ci sta rimettendo soldi. No, io ho tutti i miei cavi sono tutti messi ai paloni e di lì vai tranquillo. Non tutti gli altri che ho provato eccetera non sono all'altezza, sono molto ma molto inferiori. Quello è veramente un signor cavo per chi vuole l'affidabilità, quello è veramente l'ideale. Qua ti voglio dire una cosa, mi è sfuggito, guarda quanto sto diventando rimbambito. Io guarda, ho l'R52 ce l'ho avuto 12 anni, eppure ti dico la verità, l'ho tagliato apposta e non era arrugginito, ho detto che di solito si arrugginisce, forse anche il modo con cui è stato messo, io l'ho fatto passare nel tubo dell'antenna, poi l'ho fatto scendere dal tetto e l'ho legato a pluviale e l'ho fatto scendere sino alla finestra, però era abbastanza diciamo riservato, non era esposto a molte intemperie, capito? Tranne quello che c'era vicino all'antenna che andava sul piede, il piede sì era un po' ossidato, ma non più di tanto, e all'esterno era un po' ossidato, però erano di quei piede muri, quelli che si avvitava, anche le Regi 58 erano di quelli che facevano una volta, infatti quello lì l'ho messo a bagno nel CVC, l'ho pulito bene e l'ho ripiazzato. Infatti, anche di lì, sui PL ad esempio, sui PL, guarda, è una storia infinita, certi vogliono presi e buttati via, appena comprati, perché sono un disastro, veramente un disastro, quindi anche lì è una fortuna, bisogna magari spendere qualcosa in più, sempre stando attenti sempre più a non cadere nelle imitazioni, perché già lo sai, tra antenne taroccate, PL che funzionano un giorno sì, un giorno no, anche lì, come diceva la canzone, siamo siamo in un mondo di dati, ecco. Già, non mi parlare di pelle, perché io ho comprato il pelle da Fusaro, mi sono fatto 6 spezzoni, quindi 12 pelle. Vado a mettere lo spezzone, adesso li cambio tutti, li metto tutti nuovi. Sono andato a metterlo, beh, non avvitano i baracchini. Sono con la fiatura diversa, capito? Glielo dice porta, ma c'erano tutti saldati, avevo già fatto tutti gli spezzoni, sono bussato un'ora a vedere che si cose, dopo vado a provare e non avvita. Lo so, è capitato anche a me. Quelli sono quelli più ordinari dell'ordinario che fabbricano in Cina. Perché se ve lo dice, i cinesi ti fanno anche la roba ultima, ma se invece vuoi la roba baratta, come si dice, allora te li fanno in quel modo e spendi di più, perché poi li ricompri magari pensando chissà che cosa e continuano a andare bene. E quindi a volte è meglio spendere qualche soldino in più, però avere roba che non ti rovina neanche gli apparati, perché poi sono dolori. Gianfra, ti devo lasciare, gli afferro sono gli unici pietre che vanno bene, dai. Quegli afferro li paghi, però sono buoni. Io ti devo lasciare perché il cane è venuto qui a chiamarmi, quindi deve scendere giù. Dai, ci sentiamo Gianfra, stammi bene, grazie per il QSO, per la compagnia. Dai, ciao ciao. Sì, fa sempre piacere farsi una chiacchierata, Gianni, dato che c'è. Usiamo un po' tutto, se no cosa ci arrampichiamo a fare. Ciao, buona serata e buona cena. Salutami il cane che sarà abbastanza anziano, sa sempre lo stesso. Ciao. Ciao 10 anni, ciao, ci sentiamo, però è arzillo come un pesce, se lo vedi correre sembra un cane piccolo. Mi ricordo anche il nome, Tyson, giusto? Kappa, sì, Tyson si chiama. Ciao Gianfra, ci sentiamo. Ciao, alle prossime, buona serata. Come è entrato adesso che stava andando via Gianni? Chi si vede, o meglio, chi si sente. Come sta uscendo questa radio? Bene, fatti vedere un attimino. Questa è TS2000, dai, l'ho fatto girare un pochettino nel 27. 9.20. No, io mi sono piazzato l'antenna e la devo ributtare giù, perché questa vuole tarata in cima, quindi mi stanno prendendo per scemo questo palo lungo che scende, poi risale, scende, poi risale, scende, poi risale. Adesso ne taglio 2 centimetri, così la metto a centrobanda e buono tal secchio. Perché la devi riscendere, non ho capito? Perché la Game Master HV si sta, essendo un dipolo a mezz'onda, si tara come dipoli, quindi è latti. E siccome il dipolo è contenuto dentro un'antenna, dentro la vetroresina, quindi lo devi buttare giù e tagliarne un pezzo, se la vuoi mettere al centrobanda, perché non ti puoi fidare di quello che dice lo strumento quando l'antenna è a terra, perché avendo una discreta bobina sotto basta avvicinare la mano e vedi le stazionarie che variano. Quindi le misurazioni vanno fatte una volta che l'antenna è piazzata, e se va male la butta a terra, c'è poco da fare. Veramente d'accordo, purtroppo è un fastidio ogni volta buttarla giù, salire, scendere, o fai tutto calibrato, ma deve essere certo. È per quello che tutte le mie antenne, anche per non dipendere da nessuno, lo sto facendo le ho fatte, perché adesso sto terminando questa dei 27, no? La sto facendo tutte col sistema dell'altalena, no? C'è presente l'altalena, ecco, immaginate un'altalena che è a metà traliccio, una parte è più pesante e l'altra parte è più leggera, che non va a metterci l'antenna. La tiri che si abbassa, la tira dall'altra parte e si alza. Tutto lì, non devi salire da nessuna parte perché oramai anche le gambette iniziano a risentirne e poi è molto pericoloso. E quindi ci si arrangia così, con ingegno. Ma io ho visto anche impianti imponenti, grossi, tralicci, fatti così ribaltabili, con dei comandi a carrucola, da una parte agganciato con la carrucola, piano piano lo fanno scendere e poi lo ritira. Qualcuno l'ho visto tirare col trattore. Sì, lo so, però però sono spese grosse, non c'ho non è certo come comprare un tubo d'alluminio da 6 metri e mezzo, ecco. I miei tra l'altro sono doppi, quindi sono 6 e mezzo più 6 e mezzo, sono 13 metri di tubo, quindi perlomeno per le VHF che sono leggere, per le bibanda, e quindi lì vado abbastanza tranquillo. Ci devi studiare solo il bilanciamento e dopodiché insomma raggiungi anche un'altezza rispettabile. Tutto lì è tutto per evitare di dipendere da qualcuno. C'è Walter a coso, a 525? Ogni tanto spuntava fuori come i funghi, no? Stasera c'era anche Fabrizio, c'era Roberto, c'era, io l'ho sentito subito, l'ho salutato Claudio, poi c'era un attimino entrato coso, Michele, però era nel garage, lo ascoltavo solo io, stavano facendo prove perché c'è una radio di Walter, meno male che è in garanzia, c'ha problemi in ricezione, non sta andando bene. Sì, è partita anche Domenico che ci sentiamo. Si è accorto che la radio è partita, lui c'ha il 991A, quella della Yaesu, abbastanza nuova. Quando fa in trasmissione mi ha detto se ne scende, inizia ad andare a 20 watt, poi piano piano scende fino ad arrivare a 2 watt. E quella ne dà 50 in VHF e 45 in UHF, credo. Sicuramente lì è partito il modulo, ma figurati, non ho trovato, nonostante ho la sigla, non ho trovato neanche chi lo venda un modulo del genere. No, il metodo che è garanzia, glielo spedisce e se lo fa sistemare, perché la cosa strana con quello che doveva dare 100 watt, ha fatto la prova, non so se era 991, perché 991 mi pare non ce l'ha 100 watt, era 9000, non ho capito se era 7000 o 9000, che ne ha due uguali, infatti la prova ne ha preso un altro e poi funzionava tutto bene, quella che radio che doveva dare 100 watt andava più basso di quella che ne stava dando 50. Infatti te lo sto dicendo, la stessa cosa che è successa a Domenico con l'apparato, e lui l'aveva già una volta mandato, l'altra settimana mi ha detto che l'ha mandato su, l'hanno controllato, tenuto acceso, perché prima si spegneva da solo, ha iniziato così, si spegneva da solo e usciva a basso quando lo riaccendeva. L'hanno controllato, tenuto acceso, hanno detto, perché non c'ha niente, sia in V che in U e in HF va benissimo, siccome c'ha due finali, uno per HF e gli altri per le V e le U, e in U ha visto che adesso proprio non esce, esce con 2 watt, e quindi lo avrà rispedito indietro, ma non è più in garanzia, sono passati 3 anni, quindi è così. Ma la Yaesu non so da quando è che la stanno, i 5 anni di garanzia, almeno negli ultimi 2 anni sta dando 5 anni di garanzia, cioè lo Yaesu. 5 anni solo sui prodotti venduti da CS Song, ma lui a quell'epoca l'ha preso da un altro rivenditore, quindi i 3 anni sono scaduti. Così è. Perché normalmente a livello di robustezza la ICOM sono fenomenali come radio. Mi scusa la ICOM, la Yaesu, paragonabili ai vecchi Kenwood, perché la ICOM i nuovi, bellissimi, performati, hanno tutto il possibile, ma però grossissimi problemi di affidabilità, ne vedo tantissimi, c'è quello che li ripara, che ripara tutto, Francesco in Polonia, i T9 GOL, quello di Siciliano che è un mostro, questo se lo vede, ci sono tutti i video, tutto quanto, ma la maggior parte della le radio che entrano di dentro sono il 90% della ICOM. Ah, boh, guarda, io ho il 7300, devo dire, ne sono contento, oramai ha compiuto un po' d'anni, devo dire che è ottimo. Mentre proprio avanti ieri, insomma, stavo cercando il nome di quel finale, stavo guardando gli AESU e proprio sui finali danno parecchi problemi. Addirittura il 991, non quello A, ma quello normale, il 991, quello ancora più vecchio, hanno detto che era un bidone proprio. La lamentele di gente che l'ha restituito erano tante, quindi purtroppo è così. Tutti siamo contenti e parliamo bene dell'apparato quando non si guasta. Tutto lì, e poi quando si guasta parliamo male. Dimmi una cosa, io sto utilizzando un ex tuo apparato, il TS2000, questo tu l'hai acquistato nuovo o usato? No, quello è unico proprietario, nuovo di pacca, neanche mi ricordo da chi l'avevo preso, e figurati che con quello, prima di darlo, io parlavo e facevo anche da ponte radio con Yankee Papa Whisky, che era Olbia, quando lui aveva le direttive. Lui sentiva a me, io sentivo a lui, quindi ti puoi immaginare che qualità aveva, nonostante tutte le critiche che hanno fatto a quei poveri apparati. Vai a vedere, chi ce l'ha non lo vende. Assolutamente d'accordo, infatti secondo me tutte le critiche le fatto da persone che non lo conosco. Io devo dire, in questa fascia di prezzo e come con completezza di radio non c'è neanche uno, sfido a chiunque a trovare una radio quadribanda che abbia le possibilità che ha questa radio qua, con tutti i suoi difetti. Va. L'effetto principale è che è un po' fastidioso quando ascolti i segnali in HF, bassini, diciamo ti stanca un pochettino, non è la ricezione, quello che ascolti in altoparlante, non è come che stai ascoltando una radiolina tascabile anziché ascoltare un impianto stereo, quello lì devi faccio di difetto, quando stai ore e ore attaccata alla radio è un po' stancante, ma come ricevitore, trasmettitore non posso dire niente. Questo l'avevo spedito l'anno scorso a buon'anima di Graziano Braga, che è morto qualche mese fa, e l'avevo spedito perché secondo me c'era un difetto in cosa, lo sentivo strano, e in ricezione lui l'ha ricontrollato, mi ha aggiornato il software, ha detto la radio è perfetta, non ha niente, ha detto probabilmente gli hai dato, è possibile sia successo di vari trasmettendo con un'altra radio, è entrata un po' di, non c'era il commutatore inserito, è entrata un po' di radiofrequenza al contrario, anziché direttamente dall'antenna, gliel'ho mandata io, però lui ha detto la radio è apposta, ha fatto tutti i valori di ricezione con lo strumento, con il generatore di segnale, era tutto dentro i parametri, mi ha aggiornato il software, è stato onestissimo, considerato che si era tenuto qualche giorno in riparazione, ha voluto 80 euro, se posso solo parlare bene di quel signore lì, è stato molto onesto, mi ha telefonato, ci siamo sentiti per telefono eccetera, purtroppo non c'è più tra di noi, è andato a vivere in altri piani più in alto. Dai. No, volevo capire, ma la banda 27 del TS2000 è già aperta in origine o è stata aperta? Ma io credo che sia aperta in origine, però non me lo ricordo, mi stai chiedendo cose di un apparecchio che ho avuto quando ero ragazzo addirittura, perché proprio quello credo che sia anche tra le prime versioni, e non mi ricordo più. Comunque di lì ho fatto un intervento, l'ho dovuto spedire in assistenza, ho pagato, forse l'ho venduto proprio per quello, perché sono stato seccato da quell'evento che ci avevano tutti i TS2000 dell'epoca. Cosa era successo alla Kenwood? Che a posto dei soliti Murata come filtri le avevano dato le medie frequenze ceramiche da un'altra fornitura, da un'altra casa praticamente, e dopo un paio d'anni cosa succedeva? Che queste frequenze andavano in deriva praticamente, non erano più sensibili, la radio diventava sorda, quindi tu non sentivi più un tubo, sembrava segnali bassi, c'era un'antenna, guarda, no, l'antenna. poi sfogliando un po' le recensioni eccetera, attenzione perché quelle medie frequenze sono tutte difettose, quindi l'hanno ballato, l'hanno mandato su, l'hanno tutto revisionato e lo hanno messo a posto come tutti gli altri che l'hanno mandato. Da lì in poi hanno messo le murata, la famosa murata che si fa una volta ed erano perfette. La cosa bella anche di quell'apparecchio è che c'ha una media frequenza c'ha una media frequenza da 12 kHz, che vuol dire, infatti avevo fatto un piccolo collegamento che poi ho tolto quando l'ho venduto, che poteva ascoltare la radio DRM, che non è da non confondere col DMR, DRM, che è la radio in HF digitale, ma la sentivo in una maniera che uno rimaneva a bocca aperta, perché come tu sai ci sono le radio broadcasting anche in DMR, riceveva anche i messaggi e tutto quanto che queste stazioni mandano, tipo come si chiama, adesso non mi viene il nome, della radio FM. La qualità era eccellente, per dirti di quanto era buona quella radio. Ma l'hai visto quanto è quotata questa radio? Le vendono a prezzi ancora molto elevati, chi ce l'ha normalmente se le tiene, non le dà via, a meno che per dire ha dismesso la stazione, cose del genere, non gli serve. Marco KB la usa frequentemente per i satelliti, vai, tocca, la luce ha quella con il 1200, quel modulo del 1200, e Walter lo stesso con il 1200. Sono una radio che è uscita nel 2000, ma era 10 anni avanti alla concorrenza, prima di arrivare a fare le cose che ha fatto questa radio, gli altri sono arrivati 10 anni dopo. Tra l'altro questa c'ha 100 watt in 144, non c'è una radio che ha 100 watt di queste dimensioni, è veramente una grande radio, io sono soddisfatto, non posso dirgli niente, le cose che deve fare le fa la grande. L'unico difetto, l'indicatore di livello del segnale che è un po' fuori norma, ma devi conoscerlo, per cui riesci col preamplificatore inserito, attacchi l'attenuatore e ti dà un segnale credibile, perché sono tutti sparati i segnali di questa radio, non ho capito, però l'hanno fatto dalle tarature un ingresso anziché per dire a 100 microvolt per avere l'S9, questo magari bastano 50 microvolt per avere l'S9, non l'ho mai capito per quale motivo, però c'è un radioamatore che ha fatto questa modifica, ma io non tocco niente, tanto il riferimento in HF ce l'ho a un certo punto, vale, chi conta la radio, se vuoi fare VHF c'ho il 790, che è quello che ha l'indicatore molto preciso, tarato in un altro modo e mi dà i riferimenti. Ma infatti adesso che la radio ha la sua età, lasciala in pace, e quelli sono vizi di gioventù, quella del segnale è nata così, non è neanche un difetto se vogliamo, è solo una questione di scelta che hanno fatto loro magari, e quindi fregate tutto lì. Piuttosto ti volevo dire una cosa, ecco, dato che ce l'hai, ma quando ti decidi a fare quella cosa lì, oppure semplicemente a metterci qualche canale su quelle radio che ti hanno dato, perché giusto per fare qualche prova, perché non me lo ricordo più. Cosa si può fare, anche qualche esperimento? Qua Gianfranco è già programmato, ne stavo parlando anche con Roberto, ho detto mi devo mettere d'accordo con Gianfranco un giorno, se c'è un sabato mattina, una domenica mattina, magari, se coincide con le tue disponibilità, ci mettiamo d'accordo, magari vieni 10 minuti a casa e facciamo tutto lì, così facciamo anche l'installazione di quella roba là. La registrazione l'avevo fatta, poi mi ero bloccato a metà, ti ho detto tanto non la uso, invece adesso quando ce l'hai così almeno lo tieni utilizzabile, dai. Sì, a parte l'iscrizione, ma contrariamente a quello che pensano certe persone, puoi operare anche senza iscrizione. Non è, l'iscrizione serve solo ed esclusivamente per poter accedere alla rete Brainmaster, quindi solo per quello. Ma per tutto l'altro la radio è già operativa, una volta messi i canali uno va e parla con chi deve parlare, tutto lì. Sì, assolutamente, no, ma poi la voglio predisporre, se io voglio, l'anno prossimo d'estate, oppure quando inizia la primavera che inizi già a utilizzarlo il camper, ma la metto nel camper anche se c'è un bimbanda proprio nuovo, forse ho fatto un collegamento, questo di Roberto, avevamo fatto uno scambio della ICOM, un collegamento ho fatto con la radio, questo qua, visto che c'è il DMR, posso utilizzarlo utilizzando i punti digitali, perché magari trovo in qualche zona che c'è poca copertura dell'analogico, col digitale magari riesce ad agganciarlo. Già previsto, adesso appena c'è qualche momento di tempo ti faccio un fischio già fra e vediamo di metterci d'accordo. Cosa volevo dire? Tornando al discorso dell'S-meter di questo, dello smitter, adesso in FM, mi scusa, in FM, in 11 metri l'indicatore è giusto, come il 440, 920, quant'altro, ti fa un passaggio. Non ho capito, hai parlato troppo in fretta. Di cosa stiamo parlando? Sempre dello smitter? Ho detto lo smitter, stranamente, questo qua in banda VHF è molto generoso, forse c'è una taratura chissà per quale motivo diversa, mentre in banda 11 metri è perfetto, tu sei 9.30, se vado col 4.40 9.30 spaccato, però non so per quale motivo nelle bande di cose, 144 e 4.30, lo smitter è molto generoso, ho preamplificato l'inserito, ti ha segnali assurdi, allora devi attenuare per darti una credibilità di 20 dB. Appunto, basta un pochettino usare l'FRLRF gain e risolvi, quindi non c'è bisogno di mettere le mani dentro. Ma poi quello dei segnali è un po' relativo. Tu figurati che noi facciamo sempre delle prove in digitale con Domenico, perché innanzitutto ci sentiamo molto più chiari, e poi dato la distanza e dato le potenze, lui trasmette con 5 watt da in VHF sulla frequenza di chiamata digitale. Abbiamo provato anche in UHF, ci siamo sentiti comunque, bassi bassi, S0, però ci siamo sentiti. In analogico neanche a palla, solo in VHF in analogico. In UHF in analogico te lo scordi proprio. Ma tu lo ascolti con 5 watt in diretta, in digitale? No. Allora lui ha la sua antenna, alla 510, ci attacca al portatile, che eroga 7 watt, credo, giù di lì, in UHF, ma forse anche 6, dai, perlomeno il bit le dice 5 addirittura, in UHF. Comunque, lo sento bene, e io trasmetto con la mia 510 con 10 watt e lui mi sente, e questo l'abbiamo provato tante volte ogni giorno, e questo tramite due 510, la sua è sul traliccio e la mia è sul traliccio, tutto lì, e va bene in analogico, ripeto, la cosa si fa piuttosto. Quindi in diretta senza utilizzare i punti tu lo ascolti? Sì, direi. Io ascolto in digitale anche quando c'è qualcuno verso Arzachena, quelle parti lì. Lo ascolto. Prima ascoltavo anche Yankee Papa Whiskey, ma adesso è qualche mese che non lo sento, quindi sai, non sono costanti. Certo, poi se parliamo di passare all'Imbara non c'è problema, ecco, è un ripetitore, quindi fa il suo lavoro, tutto lì. No, tu in bara entri, io vabbè, non ho fatto di prova, ho fatto con l'altra antenna. Posso un paio di volte sono riuscito a entrare. Lo vorrei provare adesso con questa antenna qua. Cosa vuole Monterasu, come ti arriva a te? Monterasu in analogico, però Monterasu che è a 600, 145, 600, penso che va intorno al 9, 9 qualcosa, però ogni tanto sento che si lamentano perché è difettoso. Lo so, purtroppo quando sei sfortunato che ti prende il fascio del radar nel momento che stai trasmettendo viene attenuato tantissimo, se la risulta un po' sordo in ricezione e trasmissione, qua arriva a 9 più 20 tranquillamente. Poi in questi giorni si sente una portante fissa, non si capisce cosa sia. Fatta la pesca di lì, è un casino, di lì è un casino veramente. Poi dopo che scalda un po' mi sa che anche la resistenza alfa si ammoscia. Vabbè che forse era perché l'estate c'era un caldo formidabile, però non so se lo faccio anche adesso che c'è più freddo. Boh, devo dire che l'RST alfa a me arriva a fondo scala, non ho mai avuto problemi, come non ho mai avuto, non ho mai avuto problemi il ponte di Coso, di Antonio, quello di Coso, di Fiume Santo, quello arriva una bomba, mai attenuazione, mai niente, pulitissimo, l'unico difetto che c'ha quel discorso che racconta la storia del ponte, sembra che ti sta raccontando la storia del ponte, dura tre quarti d'ora, io ho detto Antonio, ti diminuisco, metti un passaggio veloce, R0 e mi R0, R7A alfa e basta, di la frequenza, non mezz'ora, dura almeno 30 secondi quel passaggio. Sì, ma guarda, la R7 alfa io ho senza antenna, quindi io ce l'ho davanti, cioè in ottica proprio vedo dove è installato e tutto. Lo stesso è per coso lì, per l'imbara c'è uno spazio aperto che arrivo discretamente sull'imbara, sia su analogico sia su digitale. Poi su monte l'altro là che c'è a portatore lo stesso, qualche volta anche in portatile col gommino, da qua e da dove sono io, col gommino idem per l'imbara. Anche da dentro, qualche volta anche da dentro casa, quindi con le mura e tutto, eccetera, eccetera. Se esco fuori è quasi certo. Tieni presente che quello digitale, come tutti i punti digitali, c'è anche un canale che si chiama TG Echo, perlomeno io lo classifico così, che non è altro che un pappagallo, quindi tu parli per un minuto e qualcosa su TG9990, li conosco oramai a memoria, e dopo un po' ti ritrasmette, così tu puoi vedere come la radio, se il passaggio è chiaro o no. Quindi è un altro vantaggio di quei punti lì. Sì, col digitale è tutto, questo è altro, fare anche informazioni messaggistiche e cose del genere, se c'è il decodificatore. No, la radio che c'è, tutte e due ricevono tranquillamente SMS, no, non c'è problema, capito, per quello. Già adesso lo fanno, poi mi ha detto che è programmata, bisogna vedere com'è programmata, perché ho visto certe radio che c'erano a mettersi le mani in testa. Ah, quindi dici che quello che c'ho io può ricevere i messaggi? Beh, tutte le radio DMR hanno gli SMS, certo che sì, di Terra magari ce l'hanno più a spasso perché credo che siano fino a 256 caratteri. Tanitone non me lo ricordo, lo sai, ma più o meno siamo lì, non è che devi mandare devi mandare un messaggio, e poi come il telefono ti avvisa, puoi mettere lo squillo, puoi modificare un po' il tono di dello squillo, eccetera, eccetera, eccetera. Tu stai dicendo che senza computer e utilizzando il display tu mi scrivi ciao 73 e mi appare nel coso, nel display della radio. Certo, la cosa io siccome ovviamente preferisco il collegamento vocale a quello degli SMS, anche per telefono tra l'altro. Di norma tutti quei messaggi classici, che ne so, chiamami al telefono, sono sotto casa, insomma tutta quella serie di messaggi, sms che puoi inviare, li ho memorizzati, perché tutti gli apparati Anitone hanno la possibilità di fare il messaggio breve, capito? Quindi ti fai tutta una serie di messaggi, sto chiudendo, sto andando a cena, le solite tiritere, e glielo mandi direttamente. Cappa, ma una domanda, sempre la ignorante, perché di digitale non sono informato. Io sto parlando con te tramite il ponte ripetitore digitale. Quella conversazione nostra l'ascolta chiunque? Dunque, ci sono due modalità, a eccezione della rete Brainmaster. Il ripetitore può fare chiamate in generale, quindi che ascoltano tutti e tutti possono intervenire, oppure la chiamata privata, io voglio parlare con te e basta, per comunicarti una cosa, senza che gli altri la sentano, quindi è stata a te. Gli altri possono sentire comunque, volendo, tutte le comunicazioni utilizzando una funzione che si chiama promiscua, promiscuos, lo chiamano così, che non è altro che la funzione monitor. Questa funzione monitor ascolta sia tutti gli slot e sia tutti i codici colore, dipende da come la imposti. E quindi comunque i miei ricevitori, ad esempio, che ce l'hanno, ascoltano qualsiasi emissione su qualsiasi tipo di colore, di TG, segnalando tutti i parametri, a eccezione delle comunicazioni criptate che utilizzano di norma gli enti. E quindi se tu mandi un messaggio a me, ciao, tanti auguri, lo vedono tutti questo messaggio? No, li ascoltano solo quelli che hanno delle apparecchiature che fanno quel lavoro lì. Sugli MSS, sugli SMS, ci sono anche lì due modalità, la modalità messaggio generale, quindi a tutto il gruppo, a tutto il TG, oppure messaggio personale al destinatario tipo email. Ho capito, no, questa digitale è una bella innovazione, esiste già da un po', però adesso la stanno rendendo pubblica anche per i radioamatori, diciamo, utilizzare le bande di coso, per cui c'erano problemi di disturbi eccetera, poi di lunghe distanze coperte rispetto all'analogico, che basta una collinetta, un coso, si attenua parecchio e non senti più niente, quindi una volta che aggancia te lo fa sentire pulito e nitido anche senza attenuazione di flussi e basta. Ok, ho sentito chiamare Roberto adesso un attimino a 525, però non ho capito cosa ha detto, un secondino, lo senti? Sì, continua a uscire con quell'antenna in tarazzino, evidentemente. Scusa, mi telefono un attimo, sono rientrato, Gianfra. Sì, ok. Niente, ti volevo chiedere, ecco, se poi una volta che ti decidi a mandare il coso lì, i documenti per avere il nominativo, tra virgolette, numerico, perché il digitale come riconoscimento radio utilizza i numeri, essendo digitale, non le lettere, ti daranno 2-2. 2-2-2 seguito forse da un 3 o roba del genere. Se ce l'hai, ti servirebbe un telefono Android per metterci l'applicazione, da fare funzionare eventualmente dove è presente un wifi, o comunque dove c'è un collegamento wifi, a meno che non ci metti dentro una scheda. Questo io ce l'ho sul mio ufficiale, l'applicazione, ma se uno vuole il telefono di servizio, diciamo, quello che usi tutti i giorni libero, allora se ne ha un altro così buttato da qualche parte, si può anche mettere lì l'applicazione. Perché non la posso mettere nel telefono chiuso tutti i giorni? Sì, non c'è problema. La metti di lì e va tranquillo lo stesso, ecco. Ma era per risparmiarti la fatica di tutta la tiritera di fare magari errori, poi ti scusa il telefono, sì, insomma, vuole configurata, ecco. Vabbè, no, ne ho uno solo, cioè ne ho altri telefoni ma ne utilizzo uno solo, ci manca solo, mi porto due telefoni appresso. No, questo discorso qua di utilizzare la linea telefonica, questo amico radioamatore, quello di Abasanta, lui quando va in campeggio sta nella zona di Bosa, che lì non c'è segnale, e utilizza quel discorso del telefono che sta dicendo tu, la linea telefonica, e si collega con tutto il mondo, mi ha detto. Sì, purtroppo la Sardegna sta iniziando a diventare un caso a sé stante per quello che riguarda i ponti radio. C'è quello dell'Imbara, Cagliari è indubbiamente molto, ma molto più servito rispetto a noi, come in tutte le cose. Nuoro non me lo ricordo cosa c'è, se c'è pure. Il nord Sardegna poi c'è giusto l'Imbara, se cade quello andiamo a spinte, è per quello che molta gente che in situazioni così sfavorevoli, anche considerando il territorio dove operiamo che è abbastanza difficile, soprattutto per l'UHF, utilizzano l'hotspot. Io ad esempio, se tu avessi l'indicativo, potrei tranquillamente farti transitare tramite il mio ponte radio sulla rete Brainmaster, non c'è problema, devo solo metterci il codice dentro e poi ti collegheresti anche con un portatile a quella distanza al ponte radio, tutto lì. Vabbè, guarda se la radio il segnale è buono. Quanto è il segnale? 9+20, hai avuto un picco superiore, bella potente. Bella, va bene, come picco? 9+20, picchi positivi a 25. Sì, ha superato un pochettino i 9+20. Se vede, sono tutti S2000, è un coso indicatore digitale, non è come 4,40. Molto forte la sento la radio, che radio è? Claudio. 50, quello che era a casa di Andrea. Va bene, volevo sapere se stavo facendo bene, che l'ho tutta regolata. La radio rimane ferma, non c'è niente da fare. Vabbè, dai, sentiamo che vado a cenare, ragazzi. Ciao. Abbassala un po', è troppo alta, Carmen. Oh, Claudio. Poi, guarda, non so se la radio è quella di prima, però per me il segnale è più basso. Più basso? Io non ho toccato niente, io. Vabbè, regolata anche per la banda laterale, dai, è la mia solita radio, già ne ho detto che va bene, Gianfranco, la stessa cosa, già lascio stare così, dai, non c'è bisogno di stare a bassa, tira e molla. No, la radio è perfetta. E lascia stare così, dai, se no è un casino, perché lui c'ha sempre queste colonnine tutte amplificate. E quindi mi riceve magari molto più forte di te. Vado a mangiare, dai, riprendi, vabbè, ciao a tutti. No, ma devo darti una cattiva notizia, guarda, con 4,40 678 il segnale, qua c'avevo il amplificatore inserito, non è il tuo segnale solito. Non è il mio segnale solito, il segnale, ma che cazzo sta succedendo qua? Infatti sono 30 watt modulati 50. Con TS2000 sei 9,20 li superi, però col preamplificatore adesso sono andato qualcosa, 678 con 4,40, aspetta che cambio radio, aspetta. Adesso non ho toccato niente io. Tu devi tenere sempre presente che quest'ora scende una iazza terribile che può influenzare anche il rapporto di potenza, anche se poco. Aspetta, guarda a vedere. come ho detto, Cla, niente, no, ci avevo attenuato l'inserito su questo 9.25, quel picchia 9.30 arriva. Cazzo di ogni volta mi fate spaventare. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. No, la radio va bene, adesso ti sto ascoltando come ti ascolto sempre, col 440, con la colonnina sua, perfetta, molto, ma ero abituato a sentirti diversamente, TS2000 è diversa come modulazione, ti ascoltavo con un altro parlante, era diversa, sembravi troppo forte, ma va bene. Infatti, ma anche tu sei molto, molto più forte col 44 rispetto a quello là, quindi va bene Roberto, a posto? Assolutamente, no, era l'impressione mia, qua ci avevo l'attenuatore, per quello arrivavi così basso, ho detto, cacchio, ma questa differenza di segnale, invece era l'attenuatore inserito, perché ho spostato le radio, stamattina ho fatto degli spostamenti e c'era l'attenuatore, non me ne sono accorto, 9.25 sei qua. No, va bene allora, dai. Ok, ciao Gianfra, ciao Roberto, ci sentiamo, che vado a cenare che è già pronto, ciao ciao. E io, ciao Cla, vai Gianfra. Ehi Claudio, alle prossime. Buona cena, ciao ciao. Questa è più forte Gianfra di radio? Boh, per me è la stessa. Non cambia niente? No, per me è identica a quella di prima, io sto usando il presidente Lincoln 2. Per cui non ti posso neanche chiedere il segnale, non è un apparato, diciamo, dove c'è un indicatore preciso. No, sempre meglio degli altri, soprattutto dello Yaesu che ci hanno fatto lo smitter e non ci hanno messo i numeri. Guarda che proprio dei cazzoni veramente. No, questo c'è i numeri ed è di norma abbastanza fedele come misurazione. Ma quante volte li saranno, per curiosità? Esattamente, te lo dico con precisione, perché c'è il coso lì, il Daiwa collegato, 6,2 watt, fischiando arriva a 6,5, stazionarie 1,4 in questo momento. Cioè il segnale è un peluzzino più alto di Claudio. Claudio è 9,25 tendente a 9,30, tu sei quasi 9,30. Ma siamo in ottica, anche quello vuol dire. Per cui io dovrei avere anche io un 9,30 di segnale, mi immagino, no? Assolutamente no. Prova. Non arriva a 9,30, cioè tu con 6 watt io ti ascolto quasi 9,30 e a me quando mi ascolti. Tieni la portante, se fa parlare. 9,25. Aspetta quanti watt. Hola. Aspetta quanti watt sto dando. Allora sono 10 watt di coso, di portante modulati, arriverà a 50-60. E infatti quando fischi arrivi a 30. Quando fischi, però se ti stai zitto sono 9,25. Tappa. Quindi, allora, quando... Ma mi ha detto che ti ha detto Roberto che è tutto già programmato. E allora dove sta il problema? No, frate, ripeto, io non l'ho provato, ho fatto una prova di accensione e boh, ho fatto un fischio e boh, ho visto che a 5.25 funzionava, però se mi dici tutto il resto, i ponti, i toni, in digitale, non ho fatto niente, perché a parte che non ho letto le istruzioni, dovrei imparare le istruzioni, e dopodiché prima di far danno è meglio chiedere a qualcuno. Beh, no, non capisco perché devi fare danno, è una radio come le altre. Devi mettere l'antenna, devi mettere l'alimentazione buona e poi girare la mano un po' dei canali per vedere dove va a finire, ecco. Soprattutto come hanno programmato i tasti di uso rapido, che non è una cosa banale, molti non sanno neanche a cosa servono, il famoso P1, P2, P3, P4, P5, P6. In tutto c'hanno 12 funzioni perché sono premuta leggera e premuta lunga. Ah, quindi se lo tiene tenuto per qualche secondo è una doppia funzione il P1, per dire. Sì, io li programmo così perché a me mi serve, che ne so, P1 è la potenza, P1 premuto è la funzione monitor che ti dicevo prima, il promiscuous, il 2 P2, cos'era? Non me lo ricordo. Il P4 è passaggio da banda normale a banda aerea. Il pulsante grande tenuto premuto passa in VFO. Il P5 è il registratore per registrare tutte le comunicazioni. Il P6 è il ponte radio che praticamente trasforma la radio o in un cross band o in un'inversione analogico-digitale oppure un ponte radio vero e proprio, però in singola frequenza, quindi sullo stesso canale. Guarda, se questa radio fosse stata più grande, per come piacciono a me, l'avrei usata molto spesso, anche in 144, però quando le vedo così piccoline a me non mi attirano. Queste sono le classiche radio da utilizzare in mobile. Avere in stazione, io ho preso il 790 proprio per quel motivo lì, avrei trovato varie radio più performanti, moderne, belle, varie con più funzioni, però non mi piacciono a me le radio piccoline. Questa l'ho presa perché era un'operazione di scambio, c'avevo quel 680 che era dato da lui, mai usato, come me l'ha dato gliel'ho restituito e l'ho preso per quello, non perché avessi motivo di averla, anche visto che c'avevo l'altra piccolina, la Palmari. Eppure è una radio sicuramente superiore a molte radio, parlo di Icon, parlo di Kenwood, parlo di Yaesu, per un motivo molto semplice, che è moderna, molto molto molto moderna, con tutte le funzioni che ad esempio l'Itera, che è una radio professionale, oppure la Motorola, ti fa pagare ognuna di quelle cosette che ha la Nippone, che sono comprese nel prezzo, se le fa pagare a colpi di 100-150 euro l'una, quindi fatti il conto del valore intrinseco di una radio così moderna, perché è molto moderna e soprattutto è anche molto affidabile. No, ma soprattutto la cosa importante è che c'ha 50 watt in una posizione, in una dimensione così ridotta, avere 50 watt, cavolo, è impressionante. Il microfono, non ho mai visto una radio con un microfono così, come si chiama, pieno di funzioni, nessuna radio, anche radio di grande livello, di apparecchi di grandissimo pregio, parlo di HF e cose del genere, con tutte quei tasti, funzioni che ci vuole un'enciclopedia per impararlo, no. E poi l'unica cosa, per attaccare il GPS devi mettere l'antenna esterna, dentro casa non ne fai niente, devi metterti un cavo di collegamento. Ma il GPS ce l'ha già in dotazione, che è la solita antennina che hanno anche le autoradio, quella quadrata magnetica. L'attacchi nello sminutino che c'è dietro e basta, finito. Sì, lo so, però io sono dentro casa, dovrei fare in modo che venga ricevuto il segnale GPS, dentro la macchina c'è, cioè nel parabrezza te l'attacchi, incolli, però qua sono all'interno di appartamento, dovrei fare una prolunga e farlo uscire fuori dalla finestra, dove va fuori dalla finestra, è un punto dove riesco a prendere il segnale. Sì, per quello non ho... che problema c'è? Non è quello il problema, anche perché il filo, se non ricordo male, è abbastanza lungo. Quello serve il GPS, soprattutto quando sei in macchina, o per la PRS, oppure anche tramite SMS, quando tu vuoi dire al corrispondente, guarda, io sono esattamente qua, ti mando la posizione. Metti GPS, cioè invia, metti invia, ti prendi l'utente e le invi la posizione, oppure a tutto il gruppo, tramite SMS sempre. A quello le squilla, le appare la posizione. In alternativa, se configurato, la posizione te la possono chiedere gli utenti anche, però quello è tipo utilizzato essenzialmente dalle forze di polizia, eccetera, eccetera. Quando vuoi sapere dove è l'autoradio, mandi il comando e c'è la risposta, oppure mandi il remote, che addirittura può fare l'autoascolto come lo fa l'Itera. quindi senza farsi scoprire vede la radio così com'è, ma in realtà sta trasmettendo, si chiama controllo ambientale. E loro vabbè c'hanno, diciamo, non dico che siano obbligati, ma devono avere la possibilità di vedere dove sono disposti i mezzi, questi mezzi ministeriali, militari, eccetera. Nel caso dei radioamatori non è indispensabile. Gianfra, ti devo lasciare, grazie del questione, grazie dell'info, poi già ci organizziamo quando ci abbiamo tempo. Adesso devo trovare anch'io qualche tempo libero e poi ti faccio sapere, tu mi dai le tue disponibilità, se coincidono ci mettiamo d'accordo. Salutiamo anche qua qualunque amico in ascolto, canale 10. Stavo dicendo il nominativo. Ciao Gianfra, ciao ciao. Ok, ciao ciao, però mi servono, ricordati, prima di fare qualunque cosa, mi servono le informazioni di come è stata programmata la radio. Oppure si può fare anche da remoto. Va bene, ciao, vabbè, alle prossime. Ciao ciao.